2024 di Enrico Pagliarini. Questa è la puntata del 5 e 6 settembre 2009. Benvenuti o bentornati a 2024, il primo programma alla radio in Italia dedicato alla tecnologia. Il nostro indirizzo digitale è 2024 @radio24.it. Anche questa puntata sarà disponibile sul nostro sito internet www.radio24.it. Trovate tutte le informazioni anche per abbonarvi al servizio podcast e quindi avere la possibilità di scaricare il file MP3 della nostra trasmissione in maniera automatica senza andare sul nostro sito internet, con software particolari che permettono appunto l'aggiornamento dei file MP3, non solo della nostra trasmissione, ma online trovate un'offerta molto vasta e prevalentemente gratuita. Chissà in futuro come si trasformerà anche questo mercato, perché questo è un altro aspetto interessante. Visto il successo del podcast, in futuro probabilmente alcuni contenuti verranno erogati via podcast, ma con un abbonamento a pagamento. Oggi la maggior parte dell'offerta è gratuita. Più tardi parleremo di libri digitali, un argomento molto interessante. Ci sono alcune novità, un'evoluzione del mercato lenta ma costante, e quindi merita un'attenzione anche da parte nostra. Adesso è con noi Fabrizio Capobianco, vogliamo parlare della sua esperienza anche per carpire alcuni suggerimenti. Dai buoni esempi nascono tante altre iniziative. Fabrizio Capobianco è amministratore delegato e fondatore di Funambule negli Stati Uniti. Fabrizio, benvenuto nei nostri studi, benvenuto a 2024. Grazie dell'invito. Tra l'altro siamo fortunati perché siamo riusciti a incrociare una serie di tuoi spostamenti in giro per il mondo, perché tu normalmente vivi in Silicon Valley, giusto? Sì, io sono 10 anni che vivo in Silicon Valley, dal 99. Quindi vieni in Italia raramente, ma non spessissimo. Avvengo abbastanza spesso perché l'azienda Funambule è un'azienda col quartier generale in Silicon Valley, ma con la ricerca e sviluppo in Italia, e questa è la scusa buona per me per tornare spesso. E magari bere un buon caffè, oltre che tutta un'altra serie di cose. Prima di parlare di Funambule, di questo tuo progetto, vorrei subito chiederti qualche cosa sull'ultima novità che avete lanciato assieme ad un'azienda che si occupa di telefonia, di voice over IP, di internet telefoni, diciamo in tanti modi, che si chiama Jaja, un'azienda che forse alcuni ascoltatori conoscono. Voi avete realizzato di fatto un software che si unisce ai servizi di Jaja, e l'Italia è il primo paese che fa un po' da apripista. Esattamente, l'Italia è il primo paese al mondo in cui lanciamo questa soluzione che si chiama Go Jaja. E Jaja si scrive J-A-J-A-H. Appunto, registrandosi sul sito gojaja.com, quello che si può fare è chiamare da cellulare un numero internazionale pagando il 98% in meno di quello che si pagherebbe chiamando direttamente dal cellulare. Di fatto voi avete realizzato un software che duplica tutti i numeri internazionali che io ho sulla rubrica instradandoli su una telefonata locale. Esattamente, quello che succede è io sul cellulare ho dei numeri internazionali, li sincronizzo con Funambule e mi duplica i numeri internazionali con dei numeri di locali, per esempio di Milano. Quindi se io voglio chiamare Fabrizio Capobianco in Silicon Valley, in realtà vado a chiamare Fabrizio Capobianco Giagia e chiamo un numero di Milano, quindi pago la telefonata da dove sono a Milano al mio operatore mobile italiano, e poi da Milano alla Silicon Valley a Jaja, quindi devo avere un credito su Jaja, ma diciamo il risultato finale è che la telefonata su Jaja è 2 centesimi al minuto, la telefonata cellulare lo sappiamo, e quindi si fa un risparmio notevole. Certo, pochi centesimi rispetto a telefonate che a volte spaventano. Io ho visto telefonate in Australia, negli Stati Uniti, che costano 10 euro, 15 euro. Io non chiamo mai, nonostante quando sono qui abbastanza spesso e dovrei chiamare. Agli Stati Uniti cerco sempre di avere un computer, avere Skype, ma questo invece mi permette adesso di poter chiamare con la mia schedina prepagata quando sono in Italia tutti i numeri americani pagando pochissimo. Senti, ti faccio una domanda sul voice over IP, che non è proprio il vostro core business, ma comunque in qualche modo si collega ai servizi che voi realizzate, di cui parleremo tra poco, non noti che ancora le cose per il voice over IP siano un po' complicate, se non altro perché noi abbiamo abbonamenti per il telefonino, per il nostro telefono di casa, agli operatori tradizionali, che di fatto cercano di osteggiare il più possibile il voice over IP. Quindi è una tecnologia, se vuoi, anche piuttosto semplice, che ci fa risparmiare un sacco di soldi, ma che gli operatori, già il fatto che ci vendano un abbonamento a internet con anche la linea telefonica è un controsenso, diciamo così. Ah, direi di sì, l'operatore tradizionale, in particolare quello telefonico, ha delle tariffe che sono particolarmente vantaggiose per l'operatore. Per loro. E sì. Quindi il voice over IP tende a abbassare i costi, per loro è un, per adesso è un problema. Il vantaggio fino ad oggi per gli operatori era che, per esempio, per usare Skype bisogna installare un client sul PC, quindi bisogna avere un PC. Sul cellulare praticamente non si riesce a installare a meno che si abbiano i dati illimitati con dei costi straordinari, con gli operatori che bloccano comunque l'applicazione. Il bello di questa soluzione di Giagia, per cui a me Giagia piaceva già da tempo, loro sono austriaci ma sono in Silicon Valley come noi, è che non devi installare niente sul cellulare, quindi puoi usare la rete normale, anche quella di casa, il telefono di casa, ma fare delle chiamate internazionali a dei prezzi bassissimi, quindi non devi installare niente, non devi avere un computer, quindi diciamo che per gli operatori diventa dura a competere, devono cominciare a correre. Sì, tu hai citato la Silicon Valley, hai detto che voi avete come Funambule un centro di sviluppo software in Italia, ma il vostro cuore pulsante, la sede dell'azienda è in Silicon Valley. Conta ancora essere in un luogo particolare, in questa economia digitale con le reti, con la possibilità di fare videocomunicazione, quindi di essere di fatto in un luogo diverso da quello dove si fa business, ma mi sembra di capire che ancora la valle del silicio sia importante. Ma dunque il cuore pulsante è sicuramente Silicon Valley, però il cervello è in Italia che serve. E essere localizzati in Silicon Valley, che è la mecca dell'informatica, ha dei vantaggi enormi, sia a livello di startup del business, perché noi abbiamo preso 25 milioni di dollari investimento da venture capitalist, che in Italia si fa fatica a trovare, e dall'altra le partnership che trovi, noi siamo un passo da Google, da Yahoo, da Facebook, da Apple, quindi facciamo parte di quell'ecosistema e ci si incontra al caffè, è molto più facile fare business anche a livello internazionale, spingere un progetto come Giagia per esempio con noi, che non facendo dall'Italia. Io ho fatto due aziende in Italia, so com'è difficile internazionalizzare. Dall'altra, in Italia abbiamo i migliori cervelli al mondo, i migliori ingegneri, e l'abbiamo provato con Funambule. Noi abbiamo 3 milioni di downloads nella nostra piattaforma, è una piattaforma italiana sviluppata in Italia da ingegneri italiani. Io ho gestito gruppi di sviluppo di vari paesi, ma i nostri ingegneri sono tra i migliori al mondo, e quindi in Silicon Valley sviluppare software non lo fa nessuno, lo fanno tutti in offshoring, in India, in Cina, in Israele. Secondo me l'Italia può essere un centro di eccellenza per il software mondiale, e per me è uno dei posti migliori dove mettere un centro di ricerca. Ormai internet aiuta, perché la conoscenza si muove alla velocità della luce. Loro sanno quanto sanno in Silicon Valley, nello stesso istante in cui esce la SDK dell'iPhone, ce l'hanno sia a Palo Alto che a Pavia, dove abbiamo il centro di ricerca. Quindi quella parte ha velocizzato tantissimo. Quando si parla di business, si parla di startup, di capitali, si parla di exit, quindi vendere l'azienda, andare pubblici, è chiaro che è più facile farlo al Nasdaq, è più facile vendere a Google essendo in Silicon Valley che non andare al nuovo mercato in Italia o vendere a un'azienda italiana, perché ce ne sono pochi. Tu dici una cosa interessante e anche molto, molto bella, e che ci dà anche un po' di speranza per il futuro del nostro paese. Tu dici che fare quello che in Italia viene chiamato il programmatore, ma che tu dici software designer, è un po' come fare il design di qualsiasi altra cosa. Il software è pura creatività, è arte dell'ingegno, ed è una delle cose, l'ingegno, la creatività, che fa parte del nostro DNA. Noi siamo i migliori al mondo nel design dei vestiti, dei mobili, delle auto. Il design del software è esattamente nello stesso filone, e lo vedo, gli ingegneri sono anche molto preparati, i nostri 40 che abbiamo a Pavia sono tra i migliori al mondo, e non ho niente da invidiare a ingegneri indiani, cinesi, israeliani, statunitensi, perché sono ben preparati e molto creativi. e hanno dei vantaggi anche in più, cioè loro sono tendono ad essere fidelizzati all'azienda, quindi per un progetto creativo che si basa solo sul cervello, essere lo stesso gruppo che si mantiene nel tempo è fondamentale, mentre in altri paesi come l'India dopo 6 mesi la gente scappa e va a fare qualcos'altro. Quindi l'Italia è veramente, ha secondo me le basi per diventare uno dei centri di eccellenza del high tech, del software in particolare. Il problema è che il marketing italiano del programmatore è pessimo. Il programmatore è uno che assembla pezzi meccanici, in realtà è un creativo. E una cosa che dico spesso è che se uno va in India, le donne e gli uomini indiani vogliono sposare il programmatore, è la persona più interessante. Da noi invece l'ingegnere non ha questa immagine eccezionale. In realtà il designer invece è quello che disegna, ma anche quello che disegna i siti web è un creativo. Quello che invece sviluppa il software e crea software per cellulari non è così considerato. Quindi uno dei miei filoni su cui spingo è quello di ricordare che il software è arte, e arte e creatività sono nel parte del nostro DNA, e questo è uno dei motivi per cui bisognerebbe investire tantissimo sul software in Italia, anche perché costa pochissimo farlo. Adesso con un computer a 300 euro e 2 cervelli, sì, è tutto quello che serve. Sì, diciamo che non gode quindi di buona fama il software designer in Italia. Esatto, e quindi il software italiano non gode di buona fama all'estero, giustamente, peraltro, perché non è tanto conosciuto. Però poi io giro le università italiane da straniero e vedo delle tecnologie fantastiche, vedo quello che i ragazzi di Funambo sono stati in grado di fare esportando un software che usano dalla Nuova Zelanda a Sudafrica agli Stati Uniti. Noi abbiamo parlato fino a questo punto di Funambo, ma non abbiamo ancora detto di preciso che cosa fate. Voi siete nati per fare software di che tipo? Dunque, noi l'idea era quella di fare il BlackBerry per le masse. Allora, BlackBerry è questo dispositivo con la tastiera, quello con cui parlano i manager. In Italia tende ad essere molto di alto livello. Noi abbiamo come scopo quello di creare una piattaforma software che abbiamo realizzato che dia a consumer, quindi le masse, la possibilità di fare posta elettronica, messaggistica mobile, sincronizzazione di contatti, calendario, rubrica, i task, le foto, la musica, i video. Quindi prendere un telefono, portarlo in quella che si chiama il cloud, nella rete, e poi sincronizzarlo col PC. Quindi fare in modo che il telefono sia un'estensione del PC che poi diventa un pezzo del navigatore che ho nella macchina, che poi è un pezzo del computer che ho sul frigo, che poi è un pezzo dello scatolotto che mi dà la telecom. E quindi l'idea è proprio quella di fare una piattaforma software che funzioni dal Razor, dalla Motorola, al BlackBerry, ad Android, al Windows Mobile, al Symbian. E ci siamo riusciti perché abbiamo veramente tantissime persone in giro per il mondo che lo usano. Sì, esatto. Voi vendete alle società di telefonia, prevalentemente società di telefonia mobile e società che erogano servizi di telefonia mobile. Non ancora in Italia, paradossale. Paradossale, software, sì, sviluppato in Italia. Ogni tanto dico che se fossi francese avrei tutto il mercato francese. Essendo italiano non abbiamo un cliente italiano, però ci sto lavorando da qualche mese e spero che le cose cambino. Il lancio di questo servizio con Giagia proprio in Italia, primo paese al mondo, era anche per cominciare a fare qualcosa in Italia, perché è un peccato che ci conoscano in tutto il mondo e in Italia invece ci conoscono poco, perché obiettivamente servizi consumer non ne abbiamo. Concretamente un cliente di un'azienda che ad esempio lavora con voi negli Stati Uniti con il vostro software e con un telefonino di qualsiasi genere, perché tu hai detto che è cross piattaforma il vostro sistema, che cosa può fare? Ma per esempio, se io sono un utente America Online, che è uno dei più grandi portali al mondo, usando il servizio di sincronizzazione di Funambo posso avere la mia rubrica di America Online sul cellulare, il mio calendario di America Online sul cellulare e poi la mail che mi arriva su AOL può arrivare sul cellulare, quindi potrebbe essere utilizzato dai nostri portali tipo Virgilio, Libero, oppure dagli operatori mobili. L'operatore mobile può fare da gateway tra il mio dispositivo e i contenuti, ovunque essi siano. Quindi noi possiamo avere la posta elettronica su Yahoo, su Google, possiamo avere delle informazioni su Facebook e portarle tutte sul cellulare, se ovviamente l'operatore lancia questo servizio per l'utenza finale. A basso costo? A decisamente basso costo. Il nostro è un modello che va sulle masse, quindi stiamo parlando di qualche euro al mese. quindi anche pochi dollari al mese, potremmo dire così. Ci fermiamo per qualche istante, questo è 2024, riprendiamo tra poco cercando anche di capire che cosa state guardando oggi in questo mondo così complesso che si trasforma così rapidamente. A tra poco. Più tardi parleremo di libri digitali, di contenuti, ma anche di hardware, di questi strumenti che ci permettono di leggere i nuovi libri, anche se di libri sul mercato ce ne sono pochi, lo scopriremo più tardi nella seconda parte di 2024. Stiamo parlando con Fabrizio Capobianco della sua esperienza, ma anche del mondo del software. Fabrizio Capobianco è amministratore delegato di Funambul, un'azienda americana e italiana, allo stesso tempo italo-americana con la sede in Silicon Valley e, come diceva poco fa Fabrizio, il cervello in Italia a Pavia. Fabrizio, a che cosa state guardando con maggiore interesse, maggiore attenzione in questo mondo complesso del web, delle comunicazioni che si trasforma anche molto rapidamente, insomma, quindi è difficile seguirlo e tradurlo in software così velocemente? Ma credo che l'angolo più interessante per noi sia quello dei social network a questo punto. Noi siamo partiti con la posta elettronica da portare sui cellulari. La posta elettronica sta diventando uno strumento più business che non consumer. I consumer oggi si scambiano informazioni via Facebook, leggono, hanno i messaggi diretti su Twitter. Quindi noi ci stiamo spostando di più su quel tipo di messaggistica che è nata per essere mobile. È proprio una messaggistica molto, molto veloce, molto rapida, molto real time, anche di più della posta elettronica. Se vuoi è un po' l'evoluzione dell'SMS. L'SMS è proprio arcaico, sì. Gli operatori hanno fatto dei margini bestiali su questi 140 caratteri, fanno pagare dei... Sì, sì, certo. È una delle cose, dei business migliori che abbia mai visto. Però evolve verso un sistema di instant messaging, un sistema di messaggistica su cui noi stiamo lavorando tanto. Io mi ricordo quando parlavo con gli operatori e mi dicevano: ma tu vuoi uccidere gli SMS? E quindi noi ti fermiamo perché certo. È un pericolo l'SMS. E io ho detto: guardi, io ho fatto partire la prima azienda di web in Italia e vendevo email. E andavo ai venditori di fax e mi dicevano: no, tu stai uccidendo il mercato del fax. Le cose poi succedono comunque. Sì, non si possono arrestare. Chi usa il BlackBerry dice che l'SMS è un sistema di messaggistica arcaico. Tu mi stai dicendo che voi volete fare il passo ulteriore perché c'è già chi dice oggi che la posta elettronica è arcaica. Sicuramente sì. L'SMS è arcaico perché per esempio non ha la presenza. Tu non sai se la persona dall'altra parte ha il telefonino acceso oppure no, che può essere positivo o negativo. È simile alla posta elettronica, se vuoi, nel senso che tu mandi una mail che è completamente asincrona. Però se guardi il modello di utilizzo dell'SMS, spesso è risposta, messaggio, risposta. È una conversazione tipo una conversazione di Facebook, tipo che ha un thread. Un instant messenger. Esatto. Quindi ti rompi più l'instant messenger, di cui c'è la faccina, la persona che è effettivamente ha il telefono acceso, non sta dormendo e così via. Quindi, secondo me, evolverà su un modello più fatturato a dati, nel senso che io ho un piano dati. A questo punto, quello che vedo io è che, come nel 94, c'avevamo i modemini piccoli piccolini a 28.8, ci collegavamo a internet, facevamo un po' di posta elettronica, ma poco. Così siamo agli inizi del web e dell'internet sul cellulare, in cui pian pianino si sposterà tutto su applicazioni IP sul dispositivo. Voice over IP sicuramente sarà l'ultimo, perché è molto pesante, ma il resto, secondo me, stiamo parlando di qualche anno. Io Noi abbiamo un'azienda costruita su un prodotto di massa come la messaggistica, la sincronizzazione della rubrica, che è un elemento centrale che nel giro dei prossimi 10 anni sarà da 5 miliardi di persone. Sì, quindi un mercato incredibile. A proposito di social network, c'è chi dice che esiste ed esisterà una sorta di migrazione da un sistema di social network ad un altro. Cioè, c'è chi dice prima tutti erano su Friendster e poi tutti si sono spostati su MySpace, adesso tutti si sono spostati su Facebook e fra un anno, due, tre, eccetera, eccetera, ci sarà qualche cos'altro. Tu noti questa tendenza o in realtà le masse potrebbero fermarsi da qualche parte? Ma la tendenza c'è, perché quello che hai detto tu è verissimo, è successo, ci sono degli spostamenti di massa significativi e quindi potrebbe succedere ancora. Il problema di avere di essere l'incumbent è che ti fermi perché hai tanti utenti, non puoi aggiungere funzionalità e quindi diventi pesante. In questo mondo si muove così in fretta che arriva quello dopo, che è un po' più veloce, tipo Twitter, come è stato Facebook. Io dalla mattina alla sera lo usavo da 5 anni, o non mi ricordo da quanto, ma dalla mattina alla sera ho cominciato a ricevere inviti dall'Italia. Gente dall'Italia, delle elementari. Sì, detto, ma come... sì. Quindi ho scoperto che effettivamente stava esplodendo. E la varietà per me come Funambul, come azienda che è open source e quindi è il più grande progetto al mondo nel mercato wireless, vivo di complessità, del fatto che ci sono 2 miliardi di telefoni, del fatto che ci sono 2 miliardi di server, connettori diversi che la comunità sviluppa, quindi qualcuno ci ha sviluppato il connettore a Facebook, qualcuno ci ha sviluppato il connettore a Twitter, qualcuno ci sviluppa tutte le altre cose. Noi ci muoviamo, per il tipo di azienda che abbiamo creato, con una velocità di innovazione superiore a qualunque altra azienda. Quindi io mi auguro che ci siano sempre più social network, sempre più complicati, perché per chi si muove così in fretta come noi, più il mondo è complesso, meglio è. Nonostante il rallentamento dell'economia, quello della telefonia mobile, a tuo parere, rimane un mercato ricco? Ma secondo me, io se ne parla poco, però l'operatore mobile, nel momento della crisi, fa ancora più soldi. Nel senso che nell'aumento della crisi la gente tende a staccare il telefono di casa, quindi parla più sul cellulare. Quando c'è la crisi la gente è triste e parla di più, invece di parlare di meno. E quindi alla fine, dall'altra, è anche il trend dei piani dati, quindi c'è gli iPhone in cui loro cominciano a fare 30 euro al mese e tutto volge a far crescere le revenues degli operatori mobili. Quindi è uno dei pochissimi mercati in crescita anche in un momento di economia. Noi l'abbiamo visto perché abbiamo appena chiuso un trimestre straordinario per noi in un momento in cui dovrebbe esserci una delle crisi più grandi dal dopoguerra. Sì. Quindi non mi torna, io non la vedo come azienda Funambo, forse siamo posizionati in un mercato particolarmente di punta come il mobile cloud sync, però questa crisi nel mondo del wireless in particolare non la sto vedendo. Qui siamo alla frontiera, alla corsa all'oro. Questo mi ricorda il 94, quando tutti dovevano fare un sito web. Oggi tutti devono avere un'applicazione su iPhone. A breve tutte le aziende dovranno avere un'applicazione su iPhone o su Android. Quindi è un mercato che va esplodendo. Mobile Cloud Sync, molto interessante questo neologismo di fatto, anche se poi voi ne parlate già da un po' di tempo. Un'ultima domanda riguarda il più ampio mondo del web. Tu dicevi sei partito dal web, oggi il tuo mondo di riferimento è più il mobile, anche se il web ha un'importanza. Sicuramente c'è chi ha detto che nonostante tutti stiano parlando del web 2.0 e alcuni già abbozzano il web 3.0, in realtà siamo solo allo 0.2, cioè siamo all'inizio di una grande rivoluzione. Tu cosa pensi? Ma sono assolutamente d'accordo. Uno dei motivi per cui abbiamo creato Funambo era proprio l'idea che ci sarebbero stati tantissimi dispositivi e che in realtà le tue dati sono invece unici e li devi sincronizzare su tutti i dispositivi. E il PC col browser è un elemento interessante, ma è un pezzo di un network di dispositivi e anche arrivando ai sensori. Quindi secondo me siamo all'inizio, perché avremo sempre più dispositivi in casa che saranno tutti collegati alla rete, che avranno tutti un pezzo di informazione. Avrò lo stereo con la musica che ho anche sul PC, avrò i video sul televisore, perché a me guardare i video sul cellulare senza il divano mi viene di sempre difficile. Avrò la rubrica del cellulare sul telefono di casa, che sarebbe anche comodo, o sul PC. Sì. Quindi questo tipo di evoluzione del web, del meteo che arriva su tutti i dispositivi, è secondo me siamo davvero agli inizi. È più una rivoluzione sugli SPIME, sui sensori, su piccoli oggetti collegati alla rete, che non necessariamente una rivoluzione sul web. Il web è una bella interfaccia per presentare informazioni, ma adesso queste informazioni si stanno distribuendo dappertutto, così come la comunicazione persona a persona. Questa parte di social network, che adesso è un po' fredda, piano piano si sta cominciando a diventare un po' più calda, nel senso che stanno uscendo prodotti mobili social network che presuppongono la vicinanza fisica, per cui portano le persone che sono lontane e stanno comunicando, che sarebbe dietro un computer, a trovarsi in un bar. Sì. E diciamo che a me piace molto, perché chiude il cerchio in cui prima ci si trovava al bar, adesso ci si trova su Facebook a casa e è un po' freddo. E poi si invece con il dispositivo mobile che ti dice: guarda che stai parlando con tre persone che sono a 200 metri da te, perché non vi trovate al bar? Sì. E quindi si ritorna a un contatto fisico che secondo me è necessario. Bene, con questo messaggio che ci apre molte finestre verso il futuro, io ringrazio Fabrizio Capobianco per essere stato con noi. Buon ritorno a casa, perché immagino, insomma, che la tua casa ormai sia la Silicon Valley, anche se il progetto di tornare qua con molti più ingegneri rimanga. Ah sì, io ormai sono in Silicon Valley, io sono lo scopo mio è quello di prendere i capitali americani e portarli in Italia e tenere i cervelli in Italia. Alcuni dei nostri ingegneri vengono dall'estero, sono rientrati in Italia perché abbiamo creato un'azienda della Silicon Valley in Italia con la PlayStation, con il calcio balilla, non si può lavorare da casa. E la mia idea finale è quella di prendere la Silicon Valley e portarmela a casa, di creare una Silicon Valley in Italia. È un po' tipico degli immigrati. Gli immigrati vanno via perché c'è qualcosa che gli manca del paese di origine, che trovano il paese finale. Io sono arrivato in Silicon Valley, quello che mi piacerebbe prendere è quella parte di tecnologia della Silicon Valley e tornarmene in Italia. Quindi i miei prossimi 40 anni saranno volti a cercare di creare questa opportunità. Una delle cose che ho fatto, per esempio, ho creato una fondazione in Silicon Valley che si chiama Mind the Bridge Foundation, insieme a un socio di Google che si chiama Marco Marinucci, un altro un avvocato di San Francisco che si chiama Matteo D'Aste. E quello che abbiamo creato è un luogo fisico in Silicon Valley che si chiama Gymnasium, in cui imprenditori italiani che vogliono fare quello che ho fatto io di Funambul possono venire in Silicon Valley, aprire un'azienda in Silicon Valley e tenere i cervelli in Italia, perché abbiamo bisogno di creare possibilmente 100 Funambul con un po' di storie di successo per dimostrare al mondo che l'Italia effettivamente può produrre software di eccellenza e quindi attirare capitali stranieri, venture capitalist in Italia e, diciamo, creare una Silicon Valley italiana, cosa che hanno fatto in Israele, e quindi non vedo perché non si possa fare in Italia. Bene, bocca al lupo allora. Grazie. Grazie Fabrizio Capobianco, CEO, dicono gli americani, amministratore delegato di Funambul. A presto e buon lavoro. A presto. E così chiudiamo questa prima parte di 2024. Vi ricordo che tra poco parleremo di libri digitali, cercheremo di capire quanto sta crescendo e quanto si sta trasformando questo mercato molto giovane. Siamo solo agli inizi, anche se negli Stati Uniti in modo particolare esiste già una buona offerta, soprattutto online e soprattutto su Amazon. Ne parleremo tra poco, questo è 2024, vi ricordo il nostro indirizzo di posta elettronica se volete scriverci, 2024@radio24.it. Ci risentiamo tra poco. Riprende 2024, vi ricordo che il nostro programma è disponibile sul nostro sito internet www.radio24.it oppure attraverso il servizio podcast, trovate tutte le informazioni online.

è implementata una parte di codice che dice che quel file appartiene a me con il mio nome e cognome e la data di acquisto. Credo che la stessa cosa possa essere fatta tranquillamente. Con i libri, e che sia una garanzia sufficiente. Abbiamo citato la musica, abbiamo citato gli MP3, che sono uno degli standard, comunque sicuramente il più diffuso, quello a cui facciamo riferimento e che tutti comprendono oramai. Se io dico guarda che ti passo un MP3, tutti sanno di che cosa sto parlando. Nei libri digitali esiste uno standard oppure no? Finalmente sì, finalmente sì, ed è un tema interessantissimo, perché forse prima vorrei anche dire, parlando degli editori, non credo che si tratti solo di loro lentezza nel passare a una transizione al digitale per quello che riguarda i libri, ma potremmo dire anche quotidiani, eccetera. Effettivamente nei panni di un editore fino a, direi, un anno fa era davvero problematico decidersi a investire sulla digitalizzazione dei propri contenuti senza avere la garanzia che poi il formato digitale scelto potesse essere riutilizzabile nel tempo e in ottica futura. A questo problema ha dato risposta un consorzio che si è costituito un anno fa e di cui Simplicissimus è membro dall'inizio. Esatto, dalla sua fondazione. Si chiama idpf.org, International Digital Publishing Forum, questo è l'acronimo. Membri di questo consorzio sono tutti i più grandi player di questo mercato, a partire da Adobe, che è il proprietario del formato PDF, come molti sanno, Amazon di nuovo, moltissimi editori di area prevalentemente anglosassone come McGraw-Hill e altri, Hachette per la Francia e così via. E lo scopo istituzionale di questo consorzio è quello di definire uno standard di archiviazione digitale per i libri. Questo standard è stato individuato e, per così dire, battezzato, e si chiama EPUB, scritto EPUB. Il consorzio lavora naturalmente alla evoluzione e alla definizione delle regole di questo standard di riferimento. La cosa importante è che a questo punto un editore ha la garanzia che lavorando all'archiviazione digitale in formato EPUB dei propri libri si ritroverà non solo un formato da cui già ora è possibile ricavare facilmente, con investimenti veramente minimi, tutti i formati commerciali che vuole adottare, quindi da PDF, Mobi Pocket, Kindle, eccetera, ma soprattutto la garanzia che, avendo un archivio digitale in formato EPUB, anche in presenza di formati commerciali futuri, l'EPUB sarà utilizzabile, perché anche nuovi formati commerciali futuri dovranno partire e tenere conto del formato EPUB come base per poterli ottenere. Senti, in questi libri digitali, dai più piccoli ai più grandi, abbiamo detto che andiamo dai 6-10 pollici, sì. Esatto. Che cosa ci vedo oltre al libro inteso come contenuto? Quindi io mi prendo, che ne so, I Promessi Sposi e mi leggo I Promessi Sposi su questo strumento. Anche altro posso leggere? Che ne so, pagine web? Assolutamente. Dunque, non propriamente pagine web, perlomeno non su tutti, perché questo sarà possibile, credo, entro un mese, soltanto sul dispositivo Irex, che si chiama DR1000, perché avrà implementato anche un suo browser dedicato, e quindi a quel punto posso utilizzarlo per una navigazione vera e propria. Mentre per tutti gli altri questo non è possibile. Quello che è possibile però per tutti è la visualizzazione e la lettura di tutto quello che posso dalla rete ricavare attraverso i feed RSS. Molti sanno forse che i feed RSS sono uno strumento attraverso il quale selezionare automaticamente dai siti che mi interessano gli aggiornamenti e le notizie. Ecco, è possibile, esiste per esempio un servizio che io personalmente utilizzo e che peraltro è gratuito, che si chiama feedjournal.com, che non fa altro che chiedermi gli indirizzi RSS dei siti che mi interessano e mi dà modo di impaginare una specie di quotidiano personalizzato con le notizie che ricavo dalla rete sui temi che voglio. Ecco, con strumenti di questo tipo posso portarmi sul mio lettore elettronico gli aggiornamenti delle varie fonti che voglio seguire in rete. Ti faccio un'ultima domanda sulla distribuzione, anche questo è un tema molto importante, cioè esistono gli strumenti, dovranno esistere i contenuti. Speriamo presto. Si trovano questi strumenti poi, perché naturalmente se io poi navigando in internet o passeggiando nei negozi, nelle librerie, non trovo questi strumenti, il mercato insomma fatica poi a prendere forma. Sì, tanto più che naturalmente è proprio perché la chiave di volta di questi strumenti si gioca sulla visualizzazione, sulla novità dell'approccio alla visualizzazione, effettivamente poterli vedere di persona è una cosa estremamente importante. Allora, diciamo che la distribuzione in questa fase in Italia avviene sia online che offline, naturalmente. Per quello che riguarda la vendita online, ma lì parliamo di chi magari ha già deciso perché l'ha visto da qualche parte, oltre che nel nostro stesso sito, i lettori di libri elettronici sono acquistabili nei siti attualmente lafeltrinelli.it, bow.it, eprice.it e fnac.it. Sì. Offline sono visibili e disponibili in attualmente mi sembra che siano circa 10 o 12 librerie Feltrinelli, quindi nelle principali città italiane, e nelle librerie Fnac. Siamo naturalmente aperti a qualsiasi interlocutore che voglia. Ci indirizziamo preferibilmente sulle librerie, proprio perché secondo noi il mercato è quello. Insomma, sì, perché è un ebook e quindi il contenuto non è indifferente. A scanso di equivoci, ma insomma, prevenendo anche alcune domande che arriveranno dei nostri ascoltatori, che diranno: ma qual è il vantaggio di questo che non abbiamo detto? Forse noi lo diamo per scontato. Ecco, in pochi secondi. Avere dentro tutti i libri e i documenti che voglio e averli senza necessità di portarmi dietro valanghe di carta oppure di dover rinunciare al libro o ai libri che vorrei avere con me mentre viaggio, questo da un punto di vista di lettura. Da un punto di vista di studio e lavoro, e parliamo naturalmente di dispositivi che consentono anche la scrittura, poter portare con me le pratiche di lavoro, qualsiasi mestiere io faccia, l'avvocato, il commercialista, piuttosto che il manager d'azienda e così via, e quindi avere uno strumento flessibilissimo per gestirmi il lavoro ovunque mi trovo. Bene, io ringrazio Antonio Tombolini che ha fondato e amministra Semplicissimus Book Farm, metteremo poi anche un link sul nostro sito internet. Grazie per essere stato con noi, buon lavoro. Grazie. E questo è sicuramente un mercato interessante in pieno sviluppo, ci sono anche novità delle ultime settimane, quindi un mercato che si sta arricchendo di offerte, seppur lentamente come dicevamo poco fa, stanno però arrivando anche alcune sperimentazioni di alcuni editori che capiscono che oramai la carta è in difficoltà e quindi uno degli sviluppi futuri dei libri, ma anche della stampa diversa dai libri, cioè i giornali, le riviste mensili eccetera eccetera, sarà appunto quella del libro elettronico oltre che di internet via computer tradizionale. Noi ci fermiamo per questa puntata, questa è la nostra ultima puntata estiva. Riprenderemo così come la programmazione di Radio 24 a partire dalla prossima settimana con la nostra programmazione annuale, autunno, inverno, primavera. Grazie come sempre per la vostra attenzione e per l'ascolto. Vi ricordo il nostro indirizzo di posta elettronica se volete scriverci. Il nostro indirizzo è molto semplice, scritto in cifra 2024, quindi 2024 e radio24.it. Io sono Enrico Pagliarini, vi ricordo anche il nostro sito internet per riascoltare le nostre puntate, andate su www.radio24.it. Questa puntata, le nostre puntate, sono disponibili anche attraverso il servizio podcast di Radio 24. Trovate tutte le informazioni online alla voce podcast sul nostro sito internet, oppure se preferite potete scriverci una email e vi daremo tutte le informazioni via email. È tutto, ancora grazie per l'ascolto, appuntamento alla prossima settimana e buon ascolto con i programmi di Radio 24. You are disconnected.